Dopo guerra in scena c'era solo il gesto, riflessi in fila, niente dentro il resto. Poi sono arrivati quelli della mente, han detto l'uomo è un sistema pensante. Non siamo solo stimolo, risposta in serie. C'è un software che si scrive tra miserie, gioie vere. La terapia ti prende e ti rieduca pian piano. Pensieri nuovi, nuove strade dentro il tuo domani umano. E in questa stanza bianca tra domande e verità, il corpo si rilassa, la mente imparerà. E ci betti, cambiare prospettiva. Non più catene ma una rotta positiva. Tra schemi antichi e mappe da riscrivere, per ritrovare un'omeostasi possibile. E ci betti, tra emozioni e cognizioni, un nuovo sguardo sulle stesse situazioni. La mente non è un dato in una statistica, è un universo vivo oltre la previsione linguistica. Guarda un bimbo che afferra il mondo a mani nude. Dal riflesso al simbolo le sue azioni non son più mute. Biologia che incontra il tempo e la storia. Nasce l'io, nasce il fuori, nasce la memoria. Schemi che si adattano, si rompono, si fanno nuovi. Ogni errore un passo avanti verso i saperi futuri. Epistemologia genetica, domanda radicale. Come nasce la conoscenza nel nostro ospite mentale? E ogni fase un piccolo Big Bang dentro di te. Il mondo si organizza mentre cresci, anche se si betti, cambiare prospettiva. Non più catene ma una rotta positiva. Tra schemi antichi e mappe da riscrivere, per ritrovare un'omeostasi possibile. Si betti, tra emozioni e cognizioni, un nuovo sguardo sulle stesse situazioni. La mente non è un dato in una statistica, è un verso vivo oltre la previsione linguistica. Come un codice condiviso, simboli che la cultura ha lentamente costruito. In classe non ti voglio solo pieno di nozioni, ma capace di stare al mondo, criticare le imposizioni. Una scuola che non misura solo pagine e voti, ma la forza di chi pensa e non si piega ai soliti ignoti. Come Bohr con suo figlio, tra colpi e amore in conflitto, onda e corpuscolo nello stesso identico soffitto. Poi arriva Chomsky con un'idea che spiazza tutti. Dentro abbiamo un linguaggio, non l'abbiamo trovato i frutti. Non dalla statistica di mille frasi già sentite, ma da circuiti antichi, strutture mai svanite. E mentre i grandi autori guardano i modelli linguistici, criticano il sogno delle macchine realistiche. Prevedere la parola non vuol dire poi pensare. La mente umana è un'altra cosa, non si lascia imitare. E si betti, cambiare prospettiva. Non più catene ma una rotta positiva. Tra schemi antichi e mappe da riscrivere, per ritrovare un'omeostasi possibile. Piaget che costruisce il mondo passo dopo passo, è Brunner che ti dice alza la testa, esci dal sasso. È Chomsky che ti sussurra dentro, hai già una musica. E noi qui a ricordare, sei più di una statistica. Tra neuroni, culture, storie e grammatica, la mente resta un mistero, una logica romantica. E se un modello prova a imitare il tuo linguaggio, tu ricordagli che sei molto più del suo coraggio.